macchina in cazzo, dentro la busta, in caso si faccia di domenica, perché c'hanno anche una scadenza, se li leggi tu quelli, c'è scritto, c'è anche una scadenza, anche nel regolatore, a parte nel tubo e anche nel regolatore. E mi chiama la scadenza, prima della scadenza mi richiamo sempre, anche mi devo fare giù lui e mi controllo la scadenza. E il tubo lo stesso, prima di scadere io mi richiamo, pure ultimamente ti ha recuperato, mi ha detto un bombolaggio, no, che vicino a casa. Lei dice scusa, ma questo tubo non è scritto la scadenza, è sparita la scadenza, allora io non lo voglio, tu a me mi dai un tubo che ci legge la scadenza, cosa cazzo di tubo da quando mi dai questo tubo? Sarà di apparato, ma se non vuole, ma non vuole, non vuole, non in casa tua. Ma lo vai, c'è lei con la scadenza, e mi fa aprire un bacco, ma è scattato la di Dio, allora me l'ha dato quello con la scritta, la scadenza, che cazzo doveva pagare un tubo senza scadenza? Dice se la sbaglio, figurati quanto tempo mi dai a rombarti. Se ci ha pagato un luso, io me l'ho fatto portare, quando è? Sarà 3 giorni fa che ho cambiato la bombola e me l'ho fatto portare nuovo, perché ho visto che stava per scadere, allora scadeva a gennaio, ma io l'ho fatto cambiare, già che era l'ultima bombola, scadeva in gennaio, ma comunque me l'ho fatto cambiare e me l'ha ricordato più un grosso. E la bombola non riesce a fura, grazie, bisogna saccare la valvola per far uscire la bombola, che se no tira, compreso. Sicuramente non è successo. O ha incartato male il tubo e l'ha bucato, che mi sembra un po' impossibile, perché se è nuovo non è che bucca così. Non si bucca così il tubo. Sicuramente deve essere difettosa la guarnizione della bombola, deve essere difettosa. Sicuramente la guarnizione della bomba, perché ti ripeto, io l'ho presa una bomba la domenica, mi è mancata, sono andata a pulire la cassa, ma ti buscherai mi ricordo come si mai più viaggio, poi non incassava bene il regolatore, un casino, poi alla fine ho guardato dentro la bomba e non c'era il gommino, bomba chiusa, non avevi, non li aveva tirata dalla bomba chiusa e te l'aveva buscata perché è in cassa. E tu però dalla porta lunedì sono andato, ho chiamato il regolatore, dammi gli acciavi, non ci diventa mappo io di domenica, poi queste cose ti capitano sempre di domenica, stai tranquillo, fatti. Noi addirittura ce l'abbiamo anche di scorta, proprio per quei motivi lì, perché capita tante volte che sia difettosa, che ci sia guardata, addirittura qualcuna trova la sorpresa che non è, prendigliela, metti. Noi ce l'abbiamo proprio, ci abbiamo il pacchetto proprio, come ce ne accorgiamo appena appena, voi subito se sentiamo la guarnizione va bene. Ma lo so io, perché poi quando facevo l'autotrasportato dal conto mio, ho segnato anche bombole dalla fiamma sarda, l'ho fatto per quasi un annetto così. Un bel di clienti, io facevo così i bombolai, non fornì. E si lamentavano, io quando ero attraversato per i disiani, che erano i rifiuti si muovono, io andavo via di me. E infatti io dalla busca mi ha giocato da Mario, già lo sai chi, il regolatore a chiave, boh, basta, trattuisce come una fottuta, l'ultimo che chiama la bomba, la guarnizione di lui questa la busca, e uno lo scorta ce l'ho sempre, non si sa mai se lui sempre passa. Sì, cioè la fiamma 2000, oggi ho capito, ma... Siamo a 2000 pesa. Oh, stanno a mangiare, dai, ci stiamo. Buona cena. E io le prendo le bombole da Mario qua, oppure le prendo lì a San Giovanni, la signora che vende concime, mangimi. Ah, ho capito. Allora tu. Perché? E poi qui Mario c'è la più cara di San Giovanni. Sì, vabbè. dice sempre, sempre fai prete, sempre così, alla cavolo proprio. Non so, perché quello lì vende pure la roba, e viene lì per fai prete così. Noi viviamo solo da quello. Ma dico, lì a San Giovanni, da quella signora che vende mangimi, lì io la pago 3 euro di meno, 20 euro, la pago da Vinci. E invece da Mario la mattessi bombola la pago 23 euro, ma un bel giorno che hanno da me i punti, sono quelli massaggi, sono quelli che devono andare i punti, me la pago in macchina e me la piglio io, sapete che vi sono combattenti. Vabbè. E io sono già fatto sempre i greci così, da poco sono andati a farlo in visita. A quella di San Giovanni? Yeah. Eppure ne prendemi, cazzo, tutti i giorni mi è capitato di andare a vedere via, fare un supermercato. Non so, via. Però se va a prendersela tu da Mario la paghi 23. Se invece ti la regalo mi pare che la base in barra 28, ma sei sicuro in più? No, 26 mi pare. 26? Sì, non me lo ricordo, forse vado su qui a prendere, ma non va a più. A chi pure vabbè, va bene, ha ragione. Quando funzionava l'ascensore qua, cazzo, io mi inviavo 2015 per il riscaldamento. Poi, 2 da 10, una bara zuppa quando la sento lo riscaldamento, paro manzano, e una bara cucina. Cazzo, dopo l'ascensore mi riceve la canna. E allora mi aveva detto, io ti arrivo, pensavo di bucare, non me la fossi in usa, di no, per le due ce la vedo, e vado su qui a prenderla. Di riccardo il gioco. Ehi, no, cazzo, no, stava noi dall'ingaffura, bianco e la rete, e cazzo stava la briga che è un parto. A che piano stai? All'ultimo, 4 piani solo. Cazzo, ma quella bomba la cosa ti mesce la canna, mi è già lo sai, zizia. Vabbè, ma se ne porti una a distanza, una adesso e una fra un'ora o una fra 2 ore, e piani così, non si ne abbia. Cazzo, ma quando ne hai 3 o 4, così ti sta un colpo, se ne dronca anche. Non so, voglia che stai facendo di fatica, fa una voce andare. Ma se sei sempre a lui, rompe il cazzo un poco, Io lo so pure io, cazzo, io me ne salito anche qua, da solo, quella era 25, me l'ho salita da solo. Allora, la macchina l'ho messa sopra il muretto, perché è pesante, chissà, per il riscaldamento. Adesso me l'ho fatta aprire la muretto, poi la muretto me l'ho bruciata in crudo. Adesso mi sono arrivato al quarto piano, muscio! Pure io ce la salgo tranquillamente, ce la salgo. La prendo la terra e la qua sopra. Vabbè, ci sono abituato, mi stanca, però non ho quelli piedi. Ma perché non hai preso mai una via di mezzo, quella da 20? A chi la voglia provare, sapete quanto mi fa via, compri. A chi sarà 15, sarà 100 da... dalle 5 del pomeriggio alle 8 e mezzo mi fate una ghita, mi fa, accendendola dalle 5 alle 8 e mezzo, mi fate una ghita. Invece mi sarà 15 a accendendola la testa dalle 5 alle 8 e mezzo, mi faceva una ghita e mezzo. Compreso, questa aveva più pressione e scaldava di più. Ma lei non è del vuoto di andare a fare 58 kg è qualcosa, dipende da come la bomba. Ma andrà sopra, cosa vuol dire? Cazzo, mi viene la parata che mi sono rimucciato. Cazzo, ma se mai volo, mi viene la parata che è nato, proprio mi sono rimucciato. Già lo so, via. Lo so, quindi. E beh, soprattutto uno che non ci ha abituato, gli fa quell'effetto lì. Uno che è abituato già batta più tranquillamente. Io che sono abituato, cioè l'ho fatta tante volte, anche per un favore, cioè, senza ascensore, va per la trapporto lo stesso, l'importante è che non siano i due. Beh, tu quando sei abituato, cioè la mano è giusto anche, però uno che non è abituato è tenere bronca le palestre, a due se tenere bronca. Sì, a te la giubilata, le prime dei piani ero così, a Rudolfo ero così, a Rudolfo, boom, cremato l'uomo. Vabbè, là, tu, io me ne andavo a mangiare che non che è pronta, lì mi sta facendo pittare, se no la domani. Buona la carica, quando la fai, salutami al Correa, salutami a Gianni quando rientra, ciao. Ma mi ha dolore da due. Ma bene, ciao, grazie, dai, ci la risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Papa, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Che tu sei? Gavaroci. Come copia tu? A Tullio. Tu sei troppo bravo, non ti sei fatto sopra un miliardo di gol che sta provando con un altro canale. Ah, e lo mettete allora? Ho sentito quelli di sfuggita, ma c'è Babbo che sta provando un altro canale. Io alla Graziano non ci stanno problemi. A te invece arrivi più basso e non riesco a sentirti. Ah, positivo. Già va bene allora. Ok, va. Bene, bene. Allora, quando riprende, già ce la ascoltiamo dopo, allora, va. Scappa. Faccia e come pagava, vabbè, cambia, più cambia e più passa, Gianni doppio rotto, Gianni è andato, porra, ma non ti ha mangiato la solita, allora vuol dire passare, cosa vuol dire che tu mangiato hai? Sì, tu hai. Oh, non sto. Ma stai bevendo per bere? Oppure bevi per bere? Cosa per bere? Bevendo. E per bere? Poco, lento, lento, ma frequente. Sì, già ho udito. Poco, lento, frequente. Che fa? Che la gara? Sente male a palla il nocche. Via, ma c'è a posto la microfono, che fa? E quale microfono? Quello che stava innescato. Quello che stava innescato, quando? Infatti, stava innescato, no? Sei parcheggiato. No, non stava innescato, non era il microfono. Ma scherzone così. Gabagata. Bene, bene. Perfetto, accetto adesso. È tutto liscio come l'olio. Saturno sono. Guarda come se sono Saturno. Va, va, va. Adesso no, adesso no. E là, cambia. Sono stati scelto bene, abbiamo eliminato tutti i cruci di fondo. Abbiamo fatto gli ispettori d'antenna nuovo, adesso non c'ho più quei rumoracci brutti che mi arrivavano. Cambia! Cava roccia, va bene così. Quanto faccio che guardo quanto sta arrivando? 1, 2, 3, 4, 5, sì, cambio. Santiago 5. Radio. La radio. Calo 4, 5 non calo, guardate la 5 le paga la tangente. Giada, giada. Già va bene, già va bene. Nulla. Fischia, Spinge con la radio, Via, avanti, chi è che vuole entrare? Avanti. manco più. Chissà chi sarà. Ah, va, il break. Ma va, ti chiedo per pensare. Ah, così è. Allora le piacciono i falchetti? Io non ne so quelli io. Ho pensato la mia moglie di giù. Oh, vuoi entrare o non vuoi entrare? No, beh, io abbiamo ancora la posso amare. Oh, esatto, come ti posso amare. Gioia, mi serve un trapano grande, mi serve qualche. E cosa devi fare? Devo per Natale a fare i buchi. Sì, devo fare 20 buchi di cuore a cavallo dopo. Ah, va bene. Già, va bene. No, no, c'è già il suo maestro. Ah, cazzo! Va bene, va bene. No, devo dire una parolaccia. Se c'è un maestro, c'è il CD. Ha parlato a gritto. Sul primo binario sul terreno di Giusso. Un terreno di risusciti di Adabrinchi. Ciabagata. Ma tu più precisa la nave lo fai, Preciso, sembra la nave di Ulpa che sta partendo. Sempre. Ciabagata. Ma che la vai a mangiare, Ulpa? Già fatto. Bene, bene. Adesso mi fa un alaccio. Va bene, tutto vitamine so. Antonio, Pompo. Adentro, Antonio, Pompo. Se ascolti la velina che ti fa la chiamatina, cambia. Adesso me lo mangio. Eia. Buona mangiata. Adesso io prendo me l'accento. Gaba gaba! Ha detto Antonio Popolo! Aspetta, poi! Siamo qua! Ah, te ne sei arrivato a fondo Smitter qua, Ti sono arrivato! Vai a fondo Scala, Tu all'anima! Ah, sei entrato, cavolo, la radio perfetta, Vabbè, Santiago ti posso dare 7. Però la radio era buona, Radio mia è sempre buona. Scappa, Rogero. E adesso non ti senti a tu? A te? Sei io, lo sei sempre. Radio. Buono. Positivo. Positivo, accetto, vai. Ma meglio di così non si può fare, perché... Eia, già va bene, già va bene. Come mai mi stai copiando più forte oggi? Ma lo sono, stai uscendo più forte. Perché il sotto mi dava sempre 5. Ma non è che c'è il making abbassato. Ma va, sì, che c'è avuto il making abbassato e come l'ho regolato ti sento più forte. Allora è quello. La faccia. Eia, senz'altro da quello. Nuovo avere. Positivo. Allora, perché? Ora tu, se ti penso ti sì. Mi sto riprendendo, ero stato un tumato a rimanere a sera, non bravo di più. Va bene, lo credo bene a tu. L'influenza non è che cosa buona, no? L'importante è che ti fa una bella cura e stai al caldo, poi già si mette a posto tutto. Ma che pirina era sono Ah, oh, ti ha baciato. Ma te l'ha baciata la febbre, sì? E mi ha fatto bene, ma non quella di dietro, no, ma proprio quella pastiglia. Già va bene anche quella, là. Già va bene, se non hai problemi di stomaco già va bene. Farmacente. È positivo, già va bene, dai. L'ha mai vista, che pirina mille. Sì. Già l'ho vista attorno. Diciamo che la migliore che c'è, dai. Quella più efficace, mi ha fatto bene però, Sì, ce lo credo, quella te la passo, Prima non sono riuscito a tenerla, perché mi era azzurra da subito. La seconda è andata bene. Già. Le portate stare bene a tu. Sta messo il streaming. Lo sai, la fila andata sempre un tubo. E poi quando lontana. Non ci voleva fare questo, brutto in questo periodo. Positivo, proprio in questo periodo ci voleva l'acqua. Avrei preferito stare tutto il giorno portando uscendo di bombole che sta tra di mare. Allora, vero. Sentite la portate. C'è qualche portantina, c'è. Allora, ha fatto pish, tre colpi, adatto. Entra, se vuoi entrare, entra, no? Se no, qua c'è ciccia. Ma io lo faccio. E tu lo passi alla grande. Sento qualche cosa sotto, sento. Allora, mattina alle 7 parlare sopra. Tengo a che cosa è resa. Stanno parlando, ma si sentono basse e basse, capito? Io già le sento, ma sono basse a tu, no? Tu ce l'ha già di tutto, la buia, la grande. Sempre giocando, K. Sì, lo sai. Ci sono aiutato la macchinetta, la BP. Sono lì per dirmi. Allora sta fregando il tipo, ma è basso piantato. E tu lo senti parlare quello che sta dicendo? Io sento parlare quello che sta dicendo. Lo senti? Che lo sento. E cosa sta dicendo? Adesso è butto. Non riesco a farlo, in partenza sul primo binario. di su sotto vedo sempre le chiavi. Una scienza è. Più giù, oh. Ah, va sotto, Un va sotto furbo. Ne parlate due. Di anguilla a casa ci vuole troppo tempo, meglio a bilancio. Tecnicamente a Sanna in notturno, qua là su internet, in notturno li hanno pescato dalle debbie, si li hanno messo da anghita, l'anghita gigante hanno preso, cavolo. Ma grossi, ma insomma, come andava, come la tirava, andava in superficie, guizzava sulla superficie dell'acqua, le vede come? Sì, ma è normale, è No, era più di un metro lunga e non so quanti chili, un po' di chili pesava, ancora lì, secondo me non si apre a mangiarla. No, grazie, sì, sì. Troppo grassa, stai sempre strappando. Sempre. Non sto strappando. Sono. Ah? Attrappa. Non fa momenti per farlo, lo fa sempre. Mi non mi resta. Ma il cavolo. No. E dopo che l'ha cambiato non lo faceva più. Per... non è il cavolo, no, già. Cos'hai? Il cavolo del microfono, l'alcol qua, il cavolo scalato. Cos'è? È rotto? No, non è rotto. Strano, perché non te lo faceva mai. Lo so, non faceva mai. Sarà magari qualche filo che ti ha rotto? Sicuramente, perché la radio esce bene, so che a momenti fa questo difetto. Sì, tutto te la fa. Lo so che non riesco già a capire di che cosa si tratta. Tu quando mi hai detto guarda che cosa hai toccato. Non è roba di massa, sicuramente. Guardare se sono attaccate le masse bene. Le ho controllate già. Le ho controllate, tutto, oggi sono stato mezza giornata a controllare lui, l'ho rifatto pure, non lo so. Pagato. E provando a mettere un altro microfono, è provato con un altro cavo, vedi se te lo fa. Sotto che più in là lo fa, infatti che non l'ha già ancora compreso una cosa. Adesso stasera non la faccio, non la faccio, non la faccio. troppo, se no lo faceva qualche momento, adesso lo sta rifacendo. Che vuoi che ti dica? Cosa che ti vado a mattare un capo, magari una fesseria non riesci a capire cosa sia. Tu viene. Ma adesso ti fai sentire il microfono, ti metto il CT, guarda. Se c'è un po' il microfono, tu gli scrivi l'altro, non lo fa. Avvisai tu. Io già questo per fare, così almeno non è il rischio di rovinare l'apparecchio, magari così da scarica, cose non rovini. Usa questo qua per il momento, poi domani ve lo giamo, già devo dire. Cazzarola, ma che cazzo? È morbido. Non so, magari è difettoso, ma è cosa vuol dire chi? Magari ha difetto che sia quello lì. Controllate il saldato sia del microfono che dello spinotto per me. Sento detto che l'ho ritagliato, l'ho rifatto tutto a capo. E allora magari è interrotto al centro la massa. Caccarola. Ma non è vero che sei in dì. Che sarebbe 23 litri al giorno. Alleluia. Sette parte cosa lo fa? 21. Una settimana fa 7 giorni. Se la matematica non la opinione, la sette parte fa 21 litri. Oh, già disco che 7 per 3 fa 21, ma non sono tutti i giorni che bevo, tutte le settimane che bevo 21 litri di vino. Ave pazienza. Questa settimana come siamo andati? Questa settimana un po' a riserva, vabbè, un po' cauti, diciamo, vabbè. Andava. Sai che dopo finisce quello lì, io l'ho sentito prosciugando le bottiglie. Ma non hai più falche, come ti va? Vedere vivo, uia, allora noi troviamo la carica, Michele c'è nuovo. Carica gnoglio. Questa carica. La carica sono i fichi, secchi. I secchi fichi. Oggi ho letto una barzelletta. Questa donna che va in una chiesa, a confessarsi, no. Il prete le ha detto, si accomodi, entra nel confessionale, dice, mi dica i peccati che ha fatto, e questa qua sta un po' zitta, e poi fa, ho fatto l'amore. E lei ha detto, ma con chi? E lì, con un prete. Come con un prete? Ma di questa chiesa. E lui gli fa, no. Ma lei di questa parrucchia? Vabbè. Te le mandano passarvi dentro le barzellette per fare. Vieni, non sta inciampugliando. No. Tu lo stai aiutando, qui diciamo noi. Che vogliamo fare? Guarda! Io ho sentito. Ma il sangue mi ha fatto fuoco, che bisogna stare sola, oggi non ne mangio più, va. Vuol dire, ci vuole. Ci ha fatto. Mi vuole un buon vino di qualità. Ecco qua. Oggi mi ho visto, sono andato a comprare i polpi per Natale. E le ho viste belle arvine, belle vive, vera, una guida grossa, buiamente, ma se la volevo, però no. Le voglio medie, gli ho detto, nel fine le grosse. Medie, però se erano buone, erano proprio buone, veramente, quelle anguille. Adesso da un po' di tempo senza mangiare. Cappa, poi dipende, come le fate? Le ho fatte con su questo piccante. Cappa, vabbè. Fatte a pezzi e poi fatte con su questo. Bene, vera. Ma le fai? O le faccio così o le faccio arrosto io? Oppure fritte, impanate e fritte. Uguale, cioè tutte le maniere le puoi fare, dai. Non è che in tutte le maniere le puoi fare. Ma quella morte sua per me è col sughetto piccante, è di un bel... È vero. Il peperoncino giusto ci deve mettere, va, più che bene. Infatti io non esagero. Io gli metto peperoncino rosso macinato. Oramai mi regolo, dai. Due spruzzatine vanno benissimo, lo senti appena, leggero, non ti fa male. Cappa. Ah, non li usi quello peperoncino a spicchi, diciamo? Sì, anche quello uso, però molte volte mi ha fregato, perché c'è nel mezzo sempre qualche pezzo spezzato, no? E lì su, ui. Cercate un seme, una cosa di grippa, invece quello lì è puoi dosarlo bene, capito? Ce l'ho anche l'altro, però lo uso di meno, là. Se non è che faccio il soffritto, magari lo metto nel soffritto, li faccio proprio un po' il sapore e quello un poco. Cappa, va bene, fritti, se non lasci poi, se no la si brinchi, facciamo già la sera, se dovesse magari mangiare un po' per riscaldarlo di nuovo, preparati di labbra. Però già fa bene, perché un vaso di lattatore, il lattatore delle arterie, le vene, le arterie, tutte le cose. Guarda, io a casa lo usiamo molto spesso. Mia moglie il sugo della pasta asciutta lo fa col peperoncino, sempre. Poi lo mette dosato, che lo si sente eccessivamente. Te ne mette uno, tanto per dare il sapore. Gappa. E quindi più lui i mochiti non li ha mai mangiati, tutti quelli ripieni, mamma mia. Lì, quelli peperoncini rottuti, piccoli, no? Sì, quelli li fa mia suocera, certo. Quando ne ringava, mi devo... Ehi, ma poco sono buoni. Ecco, li mette il tonno dentro, li mette il ripieno, poi non so cosa li pongo. Io a voi li avevo mangiato. Sono buoni, paura che sono... Mi devo lasciare pezzi piccanti, mamma mia, ui. E quelli ti fanno prendere fuoco, ti fanno sudare. Certo. Ora. Non ti ammattare a Rugabu. No, ma non attacco, Alecchio. Ah, se dai la sera di giamba che si fa, io non giamba e faccio. Vabbè, adesso ne sono provato un altro, va. Come vuoi tu. Io ce l'ho per dire 2000. No, vabbè, voglio fare un'altra prova, con un altro, a vedere. Fai. Gappa. Antutto. Gappa. Tu che puni sempre un bel barone, puni di voi. Tu così, sempre non mettiamo, ma regolato bene, non è che di buon gusto, ne metto uno e poi glielo toglie prima di mangiare, perché se no va in bocca a qualcuno, magari li brinca, lo toglie prima di condire la pasta e via. Scappa, oh, non mi va, più buono il sugo al basilico normale. Riprende questo, a noi ci piace così. Poi i sughi ne facciamo diverse maniere, però quello che facciamo normalmente per noi lo facciamo così. Che barone. Ma ne mette uno, tu non è che si sente chissà cosa, è per dare il sapore. Cavolo, no. Non mi va, no. Prima lo mangiava un po'. Poi no, non mi è più andata, non mi va più bene, perché mi fa proprio il stomaco. Domani devo fare una cosa che piace a te. Piagnone. Eia, indovina. Come mi piace? Io lo mangio qualche cosina. Dica ci vuole un pochino. A me già mi piace, il burumbe. A te mi piace di... Oh, Falche. Sì, cioè, noi non andiamo a qui, rimangio così, ma no, non andiamo a qui. Andiamo a Lindoca. Ah, pensa che una volta sono venuti i cugini di mia moglie a casa. E la sera dovevamo fare piedi da Agnello, però non era in coso che dovevano rimanere, capito? Che dovevano venire, manco che venissero, sono venuti a trovarci e mi hanno detto ci rimanete a cena, però vi devo dire una cosa, ci sono più di Daniello e siccome sono di Nuoro e loro non ne mangiano a Nuoro di queste cose, non mi piacciono. E ho detto vabbè, ti facciamo una fettina a te, però noi eravamo già in porto di fare questa cosa qua. Dice vabbè dai, noi mangiamo qualcuno. Sai cosa c'era anche sta alla fine? Se potevano bagnare il pane del tegame. sale del gas, lì mi si sono mangiati tutti di me che non si gusta, non ne posso mettere altri, non ne posso, eppure non li avevo mai mangiati così buoni, cavolo, non l'avevo mai mangiato, ne mangiamo diversamente, l'ho mangiato una volta ma non mi sono piaciuti. C'è la moglie che è francese, ha chiesto che non è su, sale del gas, lì lì. Io che non assaggio le cose, non sai di se mangio a femmina, di se è vero. E poi come ti fa mia moglie, ti fa bene, ti fa che ti ci scioccola in bocca, non devi raschiare nulla, no? Proprio come tu dici, ci dici. Cavagava. Ne ho mangiato certi così callosi che non fa, nemmeno non stacca nemmeno la cosa, no? La cottura non è azzeccata, la cottura azzeccata è quando tu li fai, ti bollisce, se lo siccino da solo, quello siccino che rimane, no? Tu giri e ne esce da solo. Ciao, hai visto stamattina? Quella è un'area gialla, ciamare ghizzo, ma area calda proprio me. E scirocco, infatti io c'era la cosa di mio figlio, a Recine, si poteva stare dal caldo. Ciao, e poi da dove hai girato il tempo solo? Era scirocco, lo scirocco è andato in contrasto con i venti freddi, mi ha climatizzato un po', dai. Cappa. Lucrezio. Leva che avevamo andato da Bagozzina, sicuramente, perché che c'è quest'alga nel bacino del Bunari che... Vabbè che voi avete che avete un'altra linea, un'altra rete. C'è che c'è quest'alga che è velenosa, prende a mano in pancia, a vomiti, a diarrea. Vado in barba. Avanti! Yeah. La PLC 800. La PLC 800. Forse è tirata con quella che ci abbiamo io e Pierpaolo. Io la lampada e Pierpaolo la lampada. Se non ti ha dato la LEM. Io ho la 1000, ho la 1000 a casa che posso avanzare all'attacco che ho, però l'attacco è della 2001. Sigma. Scusa? No, Sigma. Ah, quella della 2001? Sì, sì. La 2001 è l'L. La PL107 è Sigma. Thank you. secondo le leggi nuove penso di sì, perché non ti dà il tipo di antenna che prima c'era scritto esplicitamente che non si potevano attendere le direttive le 5 ottavi, solo la Gran Prima potevi mettere praticamente come antenna superiore. Adesso le leggi sono cambiate e non ti mette vincoli per nessun tipo d'antenna. Thank you. sentito, non ho fatto che da là ci ha fatto mettere di anguille. E ce n'è da una grossa, grossa cosa. Detto, la vuole questa qua, perché ha detto che la vuole fare, la vuole fare grossette. No, dice quella è troppo grande. Prendo molto per il negozio, io prendo molto la smeraldina. comprano anche la Tamara, che è buona, ma com'è la fa? No, già quella è buona. La Tamara è una quella a prezzo, è una quella a prezzo, è quella che costa meno, se ti fidi. Diciamo che l'acqua comunque in ogni caso di Sardegna è tutta calcarea, perché da dove scende abbiamo rocce calcaree, noi da dove scende tutto calcaree, capito? Magari in continente c'è qualche acqua che non è calcarea, tipo, io ti posso dire, levissima, c'è quell'acqua di rocchetta. Ma la dire va bene per chi è malato di rovini, va molto bene per chi ha quel tipo di problema. Se la compro me la per lui, non sono malato di rovini, sarei malato di volte, se no è malato. Ma fa urinare molto, capito? E di urinica. Va bene però. Va bene, relativamente. Avanti, capi. Fare il bacino, sì, c'è un'altra. Come hanno detto altre visite, sto dicendo io, che hanno detto che c'è quest'altra che praticamente fa male, e ti prende mal di pancia, diarrea, vomiti, nausea, mal di testa, tutte queste cose qua. Chi la beve, ma una bocca pulita, non dovrebbe essere debellata questa cosa qua. La Florida c'è un banchiglio, quelle dove c'è due rubinetti. Controllava se dava 22 ti diceva cosa che era sprecarla l'acqua. così, eccetera, eccetera. Io mi sono di lavo a casa, però se mi permette io lascia qua, sta prova di mettere la roba e poi mi lavo. Prego. te lo prendi a parecchi che c'hai, con misure, con tutto, lasciati un po' di libertà per respirare bene, trai un po' d'aria, non le mettere tutti attaccati, perché poi lo va a finire che non traspirano bene, non entra aria come dovrebbe. Ma io l'ho fatto, ma io ci avevo già una base bianca e gli ho fatto proprio tipo un cassone grande, perché io c'ho anche il garage che è grande e quindi dovevo metterci il garage. E poi l'ho fatto il piano di sopra, che adesso poi ci ho messo il Milan, nella linea del Milan, e in quelli di sotto ci ho messo il coso, il garage e il senofo. Thank you. Vabbè, io dico la verità. Quando ero più ragazzo ne ho conosciuto molte, frequenti, qualche storia c'è stata anche. Ma sempre l'abbiamo chiusa lì, da amici e basta, tutto lì. Senza che nessuno sapesse niente. Se ci telefonavamo e cosa, e via. Vabbè, comunque, adesso non mi interessa più niente, non me ne frega nulla. Ma dico, fa sempre piacere sentire una voce femminile, quello sì, perché mi piace fare il marpione. Io con i neve non l'ho più sentita, non so nemmeno se sia viva, se che fine abbia fatto. Di Walter, insomma, me lo vedi ieri. Alla fazenda, andando al ghetto. Ah, nemmeno da tanto, e sarà un 3 anni fa. Con la televisione, quello che hai visto sul sito, e stavo giocherellando così, mi stavo anche ascoltando e vedevo, grosso modo sono quasi tutti all'incirca centrati, però su quell'altro apparato hai un kilowatt fuori, invece di essere 215 sei 216, ma giusto un'informazione, ma non cambia niente, perché in AM quando mi dice va bene. Era giusto così, volevo capire se era un problema mio o eri tu che eri leggermente fuori. Questo qua è più centrato rispetto all'altro. Io all'altro c'ho lo stesso frequenzimetro, non mi dà 27215. Sì, vabbè, lascia che tu sei, vabbè, d'accordo, così. Però qua io sto usando un qualizzatore di spettro inserito, adesso qua sulla 27. E con l'altro apparato segni 7216, non 6215. Invece questo qua è 27215 e 40. Però va bene, Gianni, non è nulla di che. Era giusto così una mia curiosità, per quello ti ho chiesto di fare il cambio con un altro apparato. No, aspetta un attimino, Massimino, non ti voglio ingannare, questo qui era spostato il clarifer, non me ne ero accorto. Guarda adesso che 27215 punti proprio al punto zero. Guarda adesso come va, perché prima era spostato di due kHz. Invece ho toccato per caso il clarifer e non l'ho messo a posto, va. Guarda, 6, 27, 215, 10, 15, va bene, va. Però prima, con l'altro apparato che stai usando, non so se l'hai rimesso alto, mi sentivo a 216. Non lo so. Vabbè, adesso si è attaccato perché qua c'erano le linee attaccate, mi stanno splatterando e non riesco a capirci nulla, non si vede. Devo attaccare per forza l'altro, così mi abbasso le refeghine e se va. Ok, la prova è stata fatta, riprendi il capridù e poi va a girare. Probabilmente era spostata, avevi ragione. ho spostato le cose, le RFI. Siccome il volume è attaccato, a volte sbaglio la manopola. Perché guarda adesso com'è, è centrato proprio a punto. Palazzo 6, 27, 215,50, praticamente si è rientrato praticamente di 50 Hz, cioè stiamo parlando di virgole, non è, ma era giusto per vedere la veridicità dello strumento che sono utilizzato, che pure l'avevo già controllato con i sensori da basso, perciò fa più che bene, però non avevo mai fatto queste prove così sulla 27 per vedere se era più o meno preciso, però mi stai dando anche tu riscontro che hai trovato anche tu che era ascoltato. Adesso si può dire che sei centrato, manca se te l'ho detto, non sei perfettamente a 27,215 ma sei a 27,215,50, ma è un'inezia, l'orecchio non lo sente, ma neanche gli apparati lo sentono, perché rientri sempre in quella tangente che volte più o meno un filo, non succede nulla. E va bene, abbiamo colorato anche lo strumento. No, di là non potevo stare perché c'erano lineari a manettone, non riesco a capirci nulla. Non riesco a capirci nulla con l'altro apparato. Questo qui mi abbassa le refrigine e mi annullo. Però in questa maniera qua solo posso farlo, con l'altro apparecchio no. Ma questo qua è a più 0,50, più 0,5, un po' più su, ma non succede nulla, quello è trasposizione, la 0,50 c'è sempre, cioè, non è niente, è perfetto, va bene così, è a posto. Per esempio ci sono tutti i sensori, come hai visto la foto dell'ambientazione, è quello con quel monitor nero di 16 pulci grande, quello lì c'ha un analizzatore di filtro RF, e posso vedere le emissioni a mo' di collinette, ecco, come stavo spiegando prima, e stavo controllando, ho ristretto di 5 kg tutto per vedere, per avere la massima risoluzione, però vai bene, adesso hai migliorato la prima di questo filo, ecco qua. Gamma KP2. Stavo dicendo, Capri 2, Massimiliano è il famoso tecnico che io ti stavo dicendo che ti può mettere a posto quell'apparato. Parlaci direttamente, adesso mi infrequenta e ne approfitto. Funzionava, è andato a riaccenderlo e gli fa questo difetto. separatore che non sento basso, lo sento segnale di 2-3. Il vecchio Arras 5000 di X, non so se tu l'hai conosciuto perché sei giovanissimo, quindi non so se l'abbia conosciuto. Comunque è l'Arras 5000 di X, un apparecchio fenomenale che è montato con il microfono Diavolo Rosso, era una bomba, non c'era per nessuno. No, sinceramente non lo conosco. Ma questo è un valvolare? No, non è valvolare, è trasistorizzato, vero? Trasistorizzato? Trasistorizzato, con transistor. E diciamo che si avrà anche il 20 canali, già. E l'uscita mi sembra di... Secondo te cosa può essere successo? A tirare il finale, sinceramente non saprei, può essere una cavolata, non lo so che cos'è. Se l'ha tenuto tantissimo fermo, vista l'età dell'apparato, la prima cosa che mi viene in mente è, come hai detto tu, sono gli elettrolitici che tendono a scaricarsi, ad essere in corto, a cambiare completamente le loro caratteristiche, magari non va per quello, ecco, la prima cosa che mi... In trasmissione ci va in trasmissione? No, la ricerca è in trasmissione. Ah, potrebbe essere anche lo stadio alimentatore da qualche parte che non sta alimentando correttamente qualche cosa, perciò non va da una parte all'altra, capito? Perché posso capire gli elettrolitici, però o riceve poco o almeno un po' di trasmissione va, invece se mai né in trasmissione né in ricezione è già qualche cosa che impegna tutti e due gli stadi, perciò si va un po' indietro. Boh, così si va a indovinare, poi non, cioè, lo dovrei vedere mentre sul banco attacco gli strumenti, poi vedo che cosa è, ma sicuramente è qualche cosa derivato dalla vecchiaia. Dovrebbe essere semplicemente, cioè si potrebbe riparare tranquillamente, non penso ci siano questi problemi. L'unica cosa è reperire lo schema che facilita la riparazione. E perché non ci tiene molto? Capito, sentito, si può riparare. Ha detto che l'interessante è che tu ti recuperi lo schema di quell'apparato. Come estetica, non me lo ricordo, io l'ho sentito solo questo apparecchio, l'ho conosciuto quando l'ha usato Mario Manser, che ce l'aveva uguale, e esce un bel forte, cioè, ma veramente una radio corposa, fortissima, sembra quasi una radio valvolare. Al limite glielo porti, ma ci mirà, te lo può portare a contatto. Sì, vabbè, lo guardiamo, vedo un po' se la fattibilità, e gli dico quanto dovrebbe spendere, e poi lui decide. Infatti. Perché è un apparecchio che lui tiene, diciamo che lo possiamo definire un amatore delle vecchie radio CB. Ah, proprio, non dico tipo Walter, però è appassionato, ne ha parecchi, cioè sembra che abbi iscritti nell'armadio, tu le prendi proprio l'armadio, la moglie mi ha fatto vedere anche in sala, ne ha. Beh, la passione è quella. No, poi adesso i lavoratori o me lo sono, diciamo, ho messo nuove apparecchiature proprio per fare l'ARF come Dio comanda, perciò non ci sono problemi per quello che... Appagato, va bene. Allora, quanti decidi Capri 2 lo portiamo a Massimiliano? Se tu non sai dove esattamente ti accompagno io, non c'è problema. Perché non ho senso, ogni tanto prima entrava, ho ascoltato e cosa, non ho più sentito a cosa Mario, comunque lo usava con un diavolo rosso, era una coppietta vincente blu. Ho finito uno, ha preso l'altro. appunto c'ho tutte e due le modulazioni e adesso le ho sovrapposte. Ma non so se si è sentito qualche cosa. No, negativo. È un effetto, come ti stavo dicendo, un effetto di miscelazione. Non so, io prima stavo sparando piena potenza per farmi sentire da, come si chiama, P2. E poi ho capito la muro, si può mi dare conferma. Allora se avviene un effetto mix nell'aria, come un miscelatore audio. Vengo sovrapposte le due emissioni e io faccio da veicolo per l'emissione di quello che sentivi. Ma percepivo il motivo che a qualche fuori armonica io poi mi facevo da veicolo tutto qua. È nota come, diciamo, come effetto, non è nulla di particolare. A te già. Il cappello lo conosco, quando lo sparo è così. Non c'è problema. Io ho risolto, chiudo tutto l'RFG e non li sento più. Vai a passare la sensibilità del tuo ricevitore, perciò no, guarda, io, vabbè, io non ho problemi con quella roba lì, però anche quando, per dire, adesso che c'è Claudio che sta parlando, no, a me non mi disturba, nonostante tutto, io ce l'ho proprio vicino, nonostante tutto, fortunatamente non mi disturba. Vabbè, stai usando anche un altro tipo di apparecchio, di Massimiliano. A me mi disturbava col 140 quando parlavano magari da vicino, cose, gli spratti li sentivo lo stesso col 140, mi dava problemi. Dico, con l'apparato che usi tu, più sofisticati, non ricevi nessun problema da parte loro. Ma sai cos'è? Ma non è neanche tanto molte volte avere gli apparati o che cosa. È una questione molte volte anche della posizione, da tutti altri fattori, certo la radio vuol dire in ricezione, se c'è una radio che per carità fa schifo e prende anche Radio Maria è normale, capito? Però ci sono tantissimi fattori, però aiuta tantissimo il fatto della radio, per carità, quello lì è importante. Però tutto sommato che ce l'ho vicino a Claudio, così come anche quando Luca, tutto sommato non è disturbato. L'unico che oggi, quando aveva quel problema Saverio, quando entrava, lo sentivo ovunque, se andava che sui 10 metri, figurati, ma perché aveva problemi sulla sua radio, perché li trasmetteva ovunque, capito? Nonostante tutto io usassi magari una dedicata radio che solitamente hanno un buon rapporto sul ricevitore, tutto qua. Previa radio Massimiliano, ti posso dire che non prendono splatter, ti prendono solo quando attaccano 600, 1000 watt, normale che li prendano. Ma guarda, adesso come adesso nessuno di due sta usando queste potenze, per i segnali che sto ricevendo io qua non stanno usando queste potenze. Se stanno tirando fuori un segnale di watt è anche troppo. Vabbè, infatti adesso non li senti, adesso non, vabbè, ce l'ho l'FI chiuso, provo a aprirlo per vedere. Adesso non li sento, Massimiliano, nemmeno io. Perché guarda, qua mi stanno arrivando sullo strumento segnale di 9:20 e 9:30. Vabbè, ce l'ha fermati, perché se lo utilizzasse lo potessi superiore a 100 watt sarebbe stato a fondo scala anche a termato. Vabbè, no, ma infatti adesso non mi stanno disturbando, mi disturbano con l'attacco. Ah sì, questo lo dire, poi dipende anche dalla pista che ho utilizzato. Perché il fatto della 27 è che gli amplificatori che si usano la 27 non vengono utilizzati filtri in rete, in uscita, allora si hanno questi problemi che vanno un po' ovunque tutto qua. Se tu noti, ti è mai capitato di sentire lì vicino, tu dovresti avere quel radiatore che c'è su a Filighetto dove c'è quella antenna, ce l'hai presente? Sì, c'ho Andrea e di fronte c'ho Antone. Loro li hai mai sentiti? Vabbè, ti è mai capitato di sentirli 27? Cioè, nella loro frequenza di sentirli 27? Mai. E lì ugualmente in zona c'hai anche quell'altro, lì a San Francesco, dove c'è dopo la scuola. Ma non lo sento mai nessuno, non mi hanno mai disturbato, mai. E lì mi usano la potenza, non usano 100.000 watt, mi usano molti di più. C'è un motivo che gli applicatori utilizzati, oltre ad esserci una grossa differenza di frequenza, per carità, però capita che magari trasmettano anche il metodo mega, perché c'è un mega di differenza. Se utilizzassero amplificatori tipo quelli della PCS, guai, sarebbe l'abbattimento ovunque. Invece utilizzando gli amplificatori si utilizzano quelli del materiale, usano i filtri. Non, vabbè, lo fanno per una questione di costo, perché se no bastava utilizzare dei filtri anche sulle unità amplificatrici non disturberebbero, capito? Sarebbero selettivi per quella corrente di frequenza. Tutto qua, molte volte non è neanche tanto l'apparato di ricezione che si utilizza, che è tanto averlo che sia a posto, pulito, tanto quanto trasmette, che molte volte trasmette, perché poi basta anche pochi watt, se uno c'ha pochi watt, ma c'ha problemi al trasmettitore, lo senti ovunque. Beh, quello sì. Ma questo qui è trasmettitore, perlomeno non mi ha ricevuto splatter da nessuno. Mai. Non puoi tappare questa parte che sta avendo questi problemi qua, a meno che si stia invecchiando, non lo so cosa sia. Capri 2. Capri 2. Sta parlando. Ia. Capri 2, dai, mi hai sentito un po' arrettiti. Domani comunque sino alle 11, non sono a casa perché devo fare delle visite, e quindi sono a fare queste visite qua sino alle 11, poi dopo le 11 magari si può fare qualcosa. Ciao Caprino, ci sentiamo, avanti Massimiliano. Ciao, ci sentiamo, Capri 2, se hai detto aumentando un po' di potenza, ma mi sento. Ciao, ci sentiamo, ben sentito, alla prossima. Avanti Antonio. Niente, se non si è addormentato. Ok. Ce ne stanno Capri 2, ti abbiamo rilanciato per salutare. Comunque, Capri 2, io non ti sento, ma quando ci risentiamo alle prossime, dai. Va. E io la signorina, così la signore, un casino. Qua, o ci regoliamo qua, oppure tocca a spendere su. Vabbè dai. Ma io sono sempre del parere che basta parlarmi civilmente e la soluzione si trova sempre, per me. La forza no. Non serve a nessuno su quell'aspetto, capito? Io sto giocando a fine non fa con la potenza, sono a 5 adesso, questo qua è il minimo di potenza che puoi erogare il tuo apparato, ma sono tutti arrivo. Normalmente si parla civilmente, ma siamo sempre. Ma ti arrivo così, è il minimo della potenza di questo apparato. Cosa? Quando arrivi da me? Ho messo al minimo, meno di questo qua non dà. Come 5? Allora, ma la differenza da così a... Scusi, questo qua invece è il massimo dell'apparato. Come 5 non vedo 5? Adesso lo metto io al mio. Qua fa più, è salito a 9,20. Da 9? Da 9,920? Sì. 9,20 più, E adesso come sono? Fa 7? 9, 1, 2, 3, 4, 5. Sei 9,10. Ma figurati. Neanche metterlo a palla su sarei in alto niente. No, vabbè, io qua c'ho una scala che fa da 5 a 100, io c'ho 5, quindi non la potenza che posso utilizzare. Qua dal basso metterò che è la bandra, questo qua, costa 5 al basso, per quasi 5 si fa, non pretendo di più. Massimiliano, guarda a me, sto facendo con 900 miti fatta adesso. Sì, a 920, sì. Come va così? Sì. Sempre 920, se no. Non vedo nessun tipo di cambiamento. Siamo troppo vicini, Sei sicuro, allora? Sei sicuro, so. Non cambia nulla. Siamo vicini, non ti arrende per quello, aspetta. Aspetta, e già toccato il power, non è? Poi già lo vedo, vedi, lo vedo anche nel braccio attaccato. Adesso lo sto aumentando, piano, ecco. Sì, c'è stato da 5 a 9, però attenuato, per vedere il cambiamento. Adesso si chiude, quello che faccio. Adesso acceso la luce, poco fa non attacco la luce, ma devi anche dirti che sei sicuro, perché a volte si sbaglia, magari c'è come di andare sulla manopola giusta e tu quella vicina. C'è stato il cambiamento. Poco fa ho fatto la stessa cosa, mi ho girato la manopola, non ho fatto altro. Non ne so io. C'è un altro cambiamento, però faccio vedere anche questo. Ma questo dovrebbe essere cambiato il segnale lo stesso. Ma poi siamo vicini, non è che cambia molto. Già cambia lo stesso. Anche se è vicino ti cambierà di 10 dB, ti cambia di 5, ma già ti cambia. Non cambia tantissimo. Già. A 9,25, 9,30. E tu a quanto arriva il tuo smartphone? 9,30, tutta la scala. Quindi non può andare di più, se no se fosse arrivata a 9,60 magari sarebbe stata anche 9,45. Non so io quanto arrivi da Massimiliano. Sì, Massimiliano se sono vicino. Non so quanto arrivo io da lui. Non ti credi, no. Prova. Hola, 1, 2, 3, prova. 9,15. 10. Cambio apparato, metto un altro apparato, metto. E io non si vede a quella mia amica, guarda. Problemi non ne ho. metti il babbele e poi te lo metti. Tu? No, dico sulla palla. Sulla palla ho detto, se c'è un modo di schermarla senza problemi, senza che dia problemi, posso farlo. Sì, perché già si è dato problemi così già, con quello lì, si sente un po' di guarremme, eccetera, eccetera. Se muove chi ci vuoi adesso, non andrà più, perché c'è solo quello di problemino. Lo squelch, quello lì non lo sente più, il QRM non è semplice, quindi lo squelch, la rimodulazione è come una telefonata, il QRM non se ne sente, solo che vorrei lasciarlo aperto anche per le stazioni di bus. No, non l'ho mai montato uno. Te l'ho detto, se te lo sei scelto perché l'ho provato, l'ho provato stamattina brutto. Non lo so, ma poi che non va in Milano, deve essere perfetta la situazione. Lo so. No, ma quello è difettoso, anche quando c'è un volante l'ho dovuto prendere per quel motivo, sinceramente. Eccomi qua. Cosa ti stavo dicendo? Massimilia, la Panda dà problemi di QRM, QRM è quello di motore, cosa si può fare per togliergli questi problemi? Come sapore alla cosa, al generatore, e capisci delle candele. E li eliminiamo? Assolutamente sì. Come va con questa parata? Meglio, mi piace di più la radio, mi piace di più perché è più corposa. Se ti ricordi è quella prima che c'è giù in basso a sinistra, quella grande, quella col filo giallo. È la bella radio, mi piace. Guarda qua, non fate il segnale. Prova. Voglia. Ma sta rovinando la radio, la radio non è più limpida. Siamo vicini. Questo spara fino a 200 di suo. E mettili lì. Siamo proprio vicini, ma e poi mi va stazionare, non so perché. Sì, non avessi il bus. Sto c'è l'antenna adesso. Sì. Ma comunque va bene. Il primo passaggio mi è piaciuto di più perché io fossi troppo vicino, adesso sta andando troppo. E il primo mi è piaciuto molto il passaggio. La radio corposa e anche allo stesso tempo. Poi hai peggiorato come radio. Guarda, rampa, guarda un po' così, l'ho messo finale in classe A. E insomma, non è ancora pulita. Ho capito, ti piace così allora. Prova. Funziona come il primo passaggio. Sì, adesso va bene. Tu non mi sei convinto? No, mi è sembrato più chiaro prima, che devo dire. Vado un po' fuori banda e l'accordo in diverso modo, poi facciamo le prove. Via. Bagava. Avanti, Antoine. E cappa. Non ci stanno problemi, Massimiliano. Vai. E vedi che ci può risolvere quel problema lì. Ma se lo potevi fare, allora il capo di telecamere danno problemi, quello l'ho già avuto, il 127 mi dava un po' di problemi, li ho dovuti togliere perché a volte mi facevano andare la macchina a 3. Capucetti, che armatura intendo? A scappa, no, ma deve andare tutti completi però. Allora, praticamente i cappuccetti sono dei cappuccetti duri marron che si incastrano nella candela, poi c'hanno l'attacco, è praticamente un riduttore, dove attacchi i fili delle candele al cappuccetto, capito? Lo so, li conosco come sono fatti, ma di solito aggrappano bene, non devono avere nessun problema. E tu? Ti sto dicendo che non me lo davano, poi ho tolto quelli e non me l'ho più dato. E allora probabilmente erano quelli lì che davano il problema. Strano, magari il condensatore si può fare. Ah, io non penso. Ma che l'ho visto infatti quelli lì, Ma no, sicuramente è più il condensatore. Infatti. E manca la camera che disturba. Già lo so che disturba. Ci vediamo. Non disturba. Sì, io ci sono. Siamo molto vicini, siamo. Allora lo fa, capito? Va bene così, dai. No, per quello l'ho messo sull'accordatore che tu usa per la calza, glielo buttate giù così che rende meglio. Adesso va molto meglio, però se tu parli forse più lontano, non lo so, perché ha fatto un passaggio che si è uscito perfetto. Più lontano e più lento, prova a vedere. No, forse stavo giocando col power, guarda un po', così dovrebbe, forse così era. Sì, va bene, adesso è normale. Prima era tutto sassola, capito? Beh, è normale, siamo molto vicini, poi in AM, figurati. Sto usando sul microfono originale, Ma quel 50, venuto sì, l'ho venduto perché quello è diventato quello che sta attaccando con l'FT450 della Yaesu, quello con quel display grande, a quello che c'ha qui, quello verdastro, quello che sta in alto, se ti ricordi la foto della mia stazione. Più o meno sì, sono più grande. Dimmi. Gianni c'hai adesso. Però non riuscire l'antenna. Forse Gianni è un po' attenuato, ma se arriva non va forte, no? Che... è una radiolina un po' stabile, se dice da più uno. Che mi stanno di un po' disturbato. Ma già siamo ammurati. Una volta, non si è capito né uno né l'altro. La Massimiliano. Devo provare la nocciolina, vuoi vedere se passi tu? No, a vedere quanto arrivi da me senza essere attenuato. Ah, ma come che arrivano 9.40 con questo apparato? Arrivi 9.40. E qua sì, 9.30 quasi. Già va, figurati. Allora, qua mi segna 200 watt, mi segna. Pulla. Cioè, è un apparato che ce li ha, io non ne ho amplificatori, questo è un apparato che nasce già così. Tanto vedi, i watt sono diversi, io stavo scendendo con 10 watt poco fa, adesso prova con 100 a vedere. A diminuire? No, a vedere come esco, insomma, come esco io. Sento tutte e due forti, certo. E più di 9.30 non vai, vero. Parrucchio, ma sicuramente adesso passi tu, Ma comunque io adesso sono con 10, anzi 9 watt esattamente. Parrucchio, se senti va a prova. Beh, come ti prova niente, ma ti può provare pure uno. Ah, siete un bel forte, Un bel forte di tutte e due. Ma se c'è differenza da questa posizione a questa posizione qua, c'è stato qualche cambiamento? Vedo sia più chiara la seconda. Questa qua è più chiara. Cappa. Il segnale è sceso. Ah. Sì, perché devi abbassare il watt? No, non ho abbassato il watt. Ho messo i finali classe A, come gli amplificatori audio. Praticamente si dimezza. Toglie dei watt per migliorare la qualità, tutto qua, no, però posso riaumentare con questo qua un po' li ho riaumentati, se vuoi per avere una miglior modulazione basta. Perché c'è anche in basso, sì. Senti qua, braccio che watt tranquillamente. Ma è anche un'antenna che non è che prende più di tanto, Gianni, tutto è più alto di me, è più aperto, poi lo vedi c'è la mano, vedi c'è sta rinda, non posso mica pretendere di chissà che cosa. Però qua la c'è la rinda, ma si vede, è lontana, come va quell'antenna? Perché l'altro giorno avevamo un discorso con Antonio, come va quell'antenna, la rinda, in confronto alla mano? Ma sicuramente molto meglio, non si può fare l'onda, questo qua mi pare che sia, adesso mi ricordo quanto essere mezz'onda, un quarto d'onda, non mi ricordo, però la mappa va molto meglio, non si vede anche fisicamente, perché questo è molto più corto, sono 5 metri contro i 6 metri della mappa, questa non ha radiale, la moto c'ha radiale, insomma, a volte ne diverse, è più performante la moto qua, senza fuori dubbio, però anche la Bingo a me mi va bene, ecco. Io addirittura l'ho provato anche sulla banda regolatoriale, ci ho fatto collegamenti per mezzo Italia, figurati, in 7 MHz per intenderci. Funziona, ecco. E segnali come se li danno? Ah, segnali no, beh, noi dipende un po' dalla preparazione che c'è sul momento, ecco. Sicuramente mettendoci un'antenna performante giusto per quella frequenza il segnale aumenta ancora notevolmente, però è un'antenna che costa una quarantina di euro ed è piccola perché sono 5 metri rotti, senza radiale, non occupa spazio, è perfetta, va bene. Ma poi la prestazione come va? Il stazionale lo puoi buttare uno a uno senza nessun problema, capito? Io tutto sommato, adesso non so qua, dovevo vedere anche perché io sono attrapparato, mi da stazionare uno a uno, qua mi davo qualcosina in più, ma niente di strano, magari devo avere qualche bocchettone adesso qua, anche perché io sono sempre sotto accordatori, perciò anche se c'è un po' di stazionale non frega niente. Vabbè, ma te ne toglie, non te ne toglie l'antenna, l'accordatore te ne toglie l'apparato, però l'antenna non te ne toglie. Vabbè, comunque, è un'antenna in una via di mezzo, tra la boomerang, diciamo, e la Mantova. Vabbè, meglio la boomerang è meglio di una grappling, sicuramente, ecco. Diciamo che qualche gradino un po' più basso della Mantova, tutto qua. Pagava. Vabbè, allora. Ci può chiamare per la seconda antenna. sì, cioè io mi sono messo questa qua, perché non volevo impegnarmi a mettere una Mantova che sarebbe stato esagerato, cioè non me ne frega niente, ecco. L'ho voluta mettere giusto per attaccarci il baracchino e i laboratori ugualmente ne ho messo un'altra lì. Per motivi di leggerezza e di spazio, perché se no magari nella battuta avrei dovuto mettere anche una Mantova senza nessun problema, però ho messo quello lì che mi permette di lavorare, di attaccarci gli apparati, di fare delle prove, di andare, capito? Io quello lì addirittura la uso 10 mesi in 28 mega e va benissimo. Vabbè, certo, con l'antenna che spazia un po', dai, non tantissimo quanto la Mantova, ma come frequenza spazia un po'. Appaga. Anche il materiale mi sembra più fino della Mantova. Ma siamo lì, non cambia, capito? È una sorta di Mantova raccorciata senza radiali. Diciamo che il materiale ci siamo, è quello là, capito? Questo stavo provando, addirittura mi risuona in 25 MHz. Ma adesso domani mi porto lo strumento qua e l'ho già fatto l'antenna e lo controllo con quello lì, faccio prima. E vedo un po' dove sta il problema. Che niente, se magari con queste piogge si è sparato qualche cosa, chissà il vento, dovrò controllarla. Perché l'avevo piazzata che andava tutto quanto bene, era tornata a posto, ma mi sta venendo il dubbio che non abbia magari qualche bocchettone lento adesso su questo apparato qua, perché sull'altra parte che stavo usando prima non uso neanche l'accordatore perché mi dà 1,1 stazionario, perciò niente di strano che ci sia qualcosa di allentato qua. Infatti, ma magari anche un po' di umidità, ABL, Beh, sull'altro me l'avrebbe fatto anche sull'altro, capito? Qual è il discorso? Adesso me lo controllo, vedo che cosa è successo, se sto controllando qua dietro l'accordatore è a posto, è che c'è il mobile attaccato al muro per motivi di spazio, e rimane un po' rustico stare lì a controllare, a fare, perché se no la cosa migliore è avere quel mezzo metro, un metro di distanza dal muro, in modo che si può andare alla parte posteriore e fare i soliti controlli, capito? Non è un bordello ogni volta. Io qua adesso ho fatto il calcolo, ho 20 discese già ed è raggiunto ogni volta. Anzi, ho trovato della spiralina per i cavi ed è molto comoda perché all'esigenza la puoi togliere, puoi rimettere, posso avere fascette e le tengo ordinate così, perché sennò era veramente raggiunto. adesso sono riuscito un po' a riordinare, ho ritagliato tutti quanti i cavi a misura senza stare lì, perché prima ne avevo arrotolati per non stare lì a tagliare a fare, invece adesso li ho fatti tutti quanti a uguale misura, in modo che possano arrivare alla radio più lontana tutti i cavi, e me ne sono stati così. Poi c'ho molti cavi grossi, perché ho messo cavi, ci ho messo il coso, il 50-10, 50-20, come cavi si chiamano, K1000, cioè, ho messo poi di cavi a bassa perdita, anche perché ho una radio che va a 1200 MHz, perciò lì bisogna usare il cavo a bassa perdita, e si è fatta un po' una selva di cavi. Massimiliano, sai come ho risolto? Ho fatto un mobile, una base, con un cassettone grande dove ci sono i vari ripianti, ho messo gli apparecchi di su sotto, mi ho fatto mettere le ruote, io devo spostarlo, devo dire, io devo fare anche pulizia lì dentro, vabbè, ok, ci mettiamo le ruote, gli altri metterci le ruote, quando lo vuole lo sposta, i fili sono la lunghezza giusta per poterlo spostare, tutto quanto non gli dà nessun problema, sposta le cose, pulisce con l'aspirapolvere, lo so, il problema è che non ho tanto spazio qua, capito qual è il problema, e purtroppo sono rilevato questo poco spazio, non posso fare quel tipo di gioco, anche perché qua ho veramente tanto peso e dovrei ristudiare un po' tutto il mobile e rifarlo a nuovo praticamente. Fa le noci così non si muove più. Non so se hai visto le tracce di Walter come sono. Sì, ho visto, no, ma c'è un materiale che ha una forma all'interno ad angolare, è praticamente leggero ma allo stesso tempo robustissimo, e proprio bisogna farlo così per rivelare un po' tutto. È un po' flessibile, ecco, ho capito. Vabbè, ci dobbiamo confrontare a volte, ci dobbiamo confrontare di come abbiamo blambalata. Avanti Antonio. Successo. Antonio, rimediare per... E aspetta, signore, che c'ho le mani dietro l'apparato, non mi sono rimasto fulminato. Pare come ho fatto io, perché io ci ho messo la mano nel portalampada. Hai capito cosa mi ha... l'attentato che mi ha fatto mia moglie. Così ti voleva perdere subito. Ma mi mancava della padina perché la sua si è fulminata e la bacio, se la messa da parte sua. Io siccome l'avevo cambiata il giorno prima, ho detto, ah, deve essere, l'ho messa male, sono andato a vittarlo al buio, c'è tanto il dito nella faccia, c'è Allora, era un po' allontanato, non l'ho visto, però nonostante tutto mi sa che... Vediamo un po'. Allora, devo trovare con l'antenna diretta. A lui. Ma perché cosa stai usando? Il coso? Scommutatore? Ah, vabbè, c'è un apparatore che c'ha un commutatore d'antenna. Adesso sto passando tramite lui, capito? Per poterla, che glielo buttate giù con l'accordatore esterno. Perché... ha una resa migliore tutto qua, ma dovrei provare l'antenna diretta perché c'è l'attacco sull'altro apparato, non è la stazionaria, perché quello che c'ha l'apparato non potrebbe buttare giù le stazionarie. Sì, voglia, ma preferisco quello esterno. Io qua per ogni apparato c'ho un accordatore manuale. Prima un po' tende a preservare l'apparato da correnti statiche, da porcherie varie, perché fa da filtro, e poi hai l'accordo esce meglio, anche se quelli automatici per carità ogni giorno ormai sono micidiali, però preferisco quello esterno, una mia fissazione. Anche io c'ho l'accordatore, c'è un Rosberg, ho trovato questo accordatore, la K1000 della ZG. Però per me non ce n'è bisogno, visto e considerato che la stazione c'è sempre 1-1 al massimo, quindi non c'è problema per il momento. Quindi così mi segna uno, dovrebbe essere 1,9, figurati. E invece mi va 1,1 la stazione a 25 MHz. Siamo un attimo, quello, oggi già sta piccolo. E ci chiama, tanto perché non hai risposto. Non mi sono spostato un attimo. Dopo un attimino. Ah, casca. Va bene. Oia, hai sentito dell'acqua, Massimiliano? Dell'acqua? Di non usare l'acqua al rubinetto per cucinare, si può usare solo per lavarti e basta, per lavare la roba. No, perché cosa è successo? E a Bullari si è formata quest'alga che praticamente ti fa diarrea, vomiti, nausea, tutta questa roba qua, io l'ho già avuta, lo sai. No, vabbè, un attimo solo ne parlo con tua moglie. Ma questo quando è successo? Già? Oggi, l'hanno detto oggi, al telegiornale. Antenna 1 esattamente, come hanno detto, che praticamente non si deve usare l'acqua per bere o per cucinare cose, perché quest'alga, è stata scoperta quest'alga che dà questi sintomi qui, che si è presentata molta gente al pronto soccorso. E che allora siamo andati a analizzare tutto e ho scoperto quest'alga. Aspettino. Ma noi per cucinare è giusto per fare la pasta, non devi bere l'acqua della pasta e basta, perché il caffè abbiamo la macchinetta, ma usiamo le bottiglie dell'acqua perché il caffè esce più buono, ecco. E poi basta, ma ripeto, è giusto per la pasta, ovviamente, perché per bere la compriamo l'acqua. E so di ripensare per la pasta. E non so di tutto quando bollita resiste quest'alga. Boh, hanno detto così, non lo so. Penso di sì, perché io lo stesso, la uso per la macchinetta, uso l'acqua bottigliata. Per cucinare solo, per fare la pasta, questa cosa la uso con il rubinetto, poi la si piccola lì che mi ha fatto proprio male. Io ho anche vomitato, ti dico la verità, non so, ho avuto questa nausea che poi ti bloccava lo stomaco, sembrava che non riuscissi a respirare, una specie di pietra nello stomaco, senza aver mangiato un cavolo, perché ancora non avevo cena. Mi è venuta questa nausea, ho detto a mio marito, mi sto sentendo male, cosa c'hai? C'è un nausea, mal di testa forte. Ho detto, possiamo essere sirene, no? Che no? Era una vita, qua credimi, una vita che non rivedeva. Aspettino. Il problema è questa cosa qua, spero che la risolvano, perché la devono risolvere questa cosa qua. Ma ripeto, noi lo usiamo giusto per la pasta, l'acqua del rubinetto, e poi per il resto usiamo l'acqua imbottigliata. Problema è. Beh, dice che c'era una resa oggi nei supermercati cercando acqua. Una resa di gente. Non è che la. Una notizia di quelle per acquistare un po' di acqua imbottigliata. No, Massimiliano, non penso, non l'avrebbero detta. Sai che queste notizie qua se vengono divulgate si scopre chi le ha divulgate e sono affari loro, sempre scopi di vendita. L'ho detto Antena 1 dove erano le notizie, sempre io mi ascolto quello, mi ascolto Videolina e poi mi guardo altre cose, però quelle lì, questi dei telegiornali, infatti mia moglie mi dice mamma mia, sempre con questi telegiornali, a me piace, a me piace informare. Vabbè, mi sono considerato che non si usa comprare la nuova Sardegna a casa. Adesso ho cambiato apparato. Si sentito? Io. Non è più metallica. No, ti dirò che non è male. Prova a fare un passaggio lungo. Allora, va bene, questo qua può. Sto leggendo le stazionali, questa parte non me ne dà. Domani lo scopro. Domani porto lo strumento e qualche cosa mi tiro fuori. È chiaro, c'è più che più. Con le 60 e poi c'è quelle gialle, quelle andate di diritto, che sono quelle magari c'è più acuti, invece l'altra vabbè non ha le, ce l'ha calato l'equalizzatore ma è spesso e poi col microfono suo originale. Ma no, ma già va bene, Antonio è entrato, sì. da cagare. Dopo guardo la notte e chiudo, prendo nel suolo e lo metto sopra e via, così non ci va la folla. Ah beh, io ho quello della Swiffer, il specie di piumino della Swiffer, sempre con quello lì, con la polvere c'è formattata tra i computer, le ventole dei cosi, degli alimentatori e quant'altro, polvere c'è qua. Poi con l'acqua c'è la qua vicino, quando si apre per fare aria, troppo la polvere ne entra, ma sempre spolverando. Però ricordi una cosa, che gli apparecchi che ho io, quando li acquistano sembrano nuovi, non hanno mai un grafico, mai niente, sarò fissato, però non guasta. Male. Io ugualmente quando mi capita, perché io sono fissato che mi conservo tutte le scatole, le bustine, tutto quanto, infatti poi quando mi capita di rifletterlo o di fare il cambio, fermo, non so che cosa, praticamente mi rivalutano qualcosina in più, perché non sono tipo qualcosa più oltre che l'apparato in buono stato, perché ci faccio attenzione, faccio modo che non si graffino e niente. Quando li riverso come se fossero andati da negozio con la sua scatola, con il manuale, con le bustine, con tutto quanto. Sembra così, ma un apparato che faccio l'esempio, te lo valutano 100 da solo, con la scatola può arrivare a 150. Io sono uguale a te, c'è anche le bustine dove si mette l'antenna smontata, quando sono portati, il microfono, la staffa, tutte le bustine conservate dentro la scatola, con tanto di garanzia all'interno della scatola, di modo che non la perda, e via dicendo. Sono anch'io molto ordinato in queste cose, infatti mia moglie mi dice, se fossi più ordinato con la roba a vestire invece che... Mamma mia. E comunque non è mai una fissazione, diciamo che queste cose necessitano di essere tenute nel migliore dei modi, anche perché se poi vuoi la soddisfazione di vederle belle sempre pimpanti, belle nuove cose, lucide, perché io ripasso il pennellino, non è che mi sfrego spray o che cosa. Diciamo che non fa passare questi spray, perché anche lo spray dei vetri contiene ammoniaca, l'altro giorno mi sta facendo per qua, stava pulendo il microfono, il tavolo più 3, nuovo. Ha detto che come ha passato un po' di cosa per i vetri, e quelli qui non per i vetri si ha scolorito tutto il microfono. No, io anche prima usavo il pennello, poi mi sono accorto che tende a fare le levigature sui display. Allora mi sono munito dello spolverino della Swiffer, che è antistatico, praticamente tende a tirare la polvere, piuttosto che questa roba qua per il sporco, poi non, fortunatamente non. E poi io quando devo utilizzare le radio dietro facciamo così, mi lavo le mani, così perché tendiamo ad avere quella grasso della pelle tende a sporcare, e ci passo lo spolverino della Swiffer, perciò neanche quel problema lì, perché il pennellino visto che tendeva a graffiare. E display uso qui panni microfibra distatici, quelli che si usano sempre gli occhiali. Ma no, io non ho mai notato questo affare, non è che c'è l'altro tipo di pennello, quello che lascia la striscia e quello che no. Io non ho mai notato, io vabbè, lo posso leggero, senza forza, proprio leggerissimo. sai cos'è? Si nota molto su quei display veramente ampi, quelli grandi, tenere di forza può passare, io avevo delle apparecchiature, erano un po' vecchiotte, però si percepisce bene, e a forza di pulire col pennellino tendeva a lasciare piccole rigature, infatti siamo tutti quanti rilucidati su tutti i grassi, perché c'è un sistema per pulire i grassi nei display, e li ho spostati di nuovo a nuovo, e alla volta poi ho scoperto lo solito solito della Swiffer e uso quello lì, ma io addirittura quelli degli diaframmi della macchina, cioè i focalini removibili, come custodia uso, li avevo trovati in farmacia, sono delle custodie per i biberon, quelli di neoprene della Kiko, che comunque sono rientrato. Da pagava, continua la scimmia. Sparito, avanti, riprende. Giuliano, no. Mai sparito. Giuliano. Oh? Come è sparito? Non lo so, sono tu, forse sta facendo qualche lavoretto. Capo, sta parlando con te adesso. Magari si è staccato qualche filo già di gente. A me molte volte prima vabbè mi succedeva più spesso, cavolizzi con roba del genere, passavano, tiravano il capo e me lo staccavano. E allora ho deciso di mettermi qua così almeno. E scappa. Adesso ci avevo ragione io. Cosa? Il materiale è più o meno lo stesso. Senza ombra di dubbio è mezzo di botte anche antenne, è una via di mezzo. Se non l'avrei messo su mi avrei messo quella, tanto, a voglia che arriva la bomba da tutte le parti e mi fuori. E poi se non va arrivi in una maniera va arrivi nell'altra, appena appena e poi. Ma non ti tiene i fatti che vuoi? Siamo in mare che tiene 2000 watt, se non mi ricordo male, 2000-2500 watt. Mi dai di stelle, 1000 watt mi pare. Cazzo già, sono uguali sono, dai, cioè com'è potenza siamo lì. Cosa mi interessa mettermi la mantova che è troppo grande. Cioè, soprattutto se io avrei avuto la possibilità, su questo pezzo qua non ne avrei potuto, non ne avrei messo manco qua. Perché già lo sai come ti sono i nostri. Avrei messo una Ringo e avrei risolto tutti i problemi. Ma la Ringo ce l'hai. Non c'è bisogno manco di comprarla. Sì, già ce l'ho. Ma i nostri già lo sai benissimo che ce ne vogliono due. Vabbè, mi farà te la codiscesa a due. Scappa. Non si può fare che bruciate altre note, una da una parte e una dall'altra, però se io avrei avuto la possibilità avrei messo una di quelle, due di quelle, dai, perché, proprio perché già lo sai come ti gioia i notti, che rompono le scatole. No, magari, basta usare il sangue in una stanza. E lo so, però ognuno deve avere la sensazione. Così è. sì. Vabbè, Massimiliano. Sì, ha attaccato il contattore, troppa roba accesa. Hai visto? Non è tanto che era qualche cosa. Questi contattori non ho sempre solito i problemi, basta che c'è lo scaldabagno attaccato, attacchi la santo se ti passi. Era meglio buru oggi, da noi. Infatti. Ma che già vuoi va? Sono da quando hanno inventato, hanno fatto questi nuovi contattori, non servono più a nulla e ti mettono in condizioni di aumentare il chilo fatto per pagare i bili. Oggi è sacca in diete invece a rompere il cazzo, per carità. Secondo me è stato fatto con scopo questa cosa. Sì, ma una certa cosa ti ci stacca tutto. No, se la gente si rompe le scatole, fa adesso che abbia specialmente le attività. Bravo che ti dico. Quanto c'hai di kilowatt, Massimiliano? 3 kilowatt normale. 4. Però, e non ce la fa. Che cosa? adesso c'è cioè, la bagna accesa, la vestito video accesa, il televisore acceso, faccio il computer acceso, la vede accese. Poi succede anche questo qua, che ci sono dei piccoli cali di tensione, di volts, però l'assorbimento esce per quello lì. Allora, cosa succede? Per sopperire il calo di tensione aumentano gli ampere assorbiti e lì fa terminare il magneto termico del contatore e interviene, capito? Tutto là. Succede anche quando ci sono soprattutto abbassamenti di tensione, passano anche pochi volt e tende a aumentare l'assorbimento perché il fattore di potenza delle stesse è lo stesso, proprio la tensione è a ferro, deve dare quella potenza che tu stai richiedendo, allora si sia quasi da una parte e si tende a sollevare dall'altra. Purtroppo. Pure qua succede quando si usa il ferrozzido e lo scaldabagno, un'altra cosa, scatta la luce e non andrà più. Facciamo lo stesso 4 kW anche qua. Ma scusi, io infatti da poco mi sono dovuto acquistare un gruppo di continuità grosso da 1500 per i computer, perché succedeva che quando andava via la tensione, c'era il computer acceso, faceva un macello per poter abbassarla. Infatti adesso mandate la corrente, poi i computer sono rimasti accesi e non ha fatto nessun danno. Perché se poi, non so, ci sarà venuta tante volte la curiosità di misurarla, facca e daiga. Ah no, guarda, fa tutto sommato è abbastanza stabile la tensione, però capita, ci sono dei momenti alla giornata dove si abbassa, ma quello di qua succede quando c'è molta richiesta di corrente da parte dell'utente, allora tende ad abbassarsi la tensione diretta. Magari poi c'è stato adesso un caso adesso che magari molti abbiamo acceso la pompa di calore piuttosto che la lavastoviglie o le lavatrici, piuttosto che gli scaldabagni, perché non sembra, ma molta gente ha preso il vizio di attaccare diciamo tutti quegli elettrodomestici che assorbono durante la notte proprio per dividere il carico, allora anche lì non c'è una buona richiesta di potenza. Guarda, una volta qua l'abbiamo misurata, cavolo, la tensione a 240-250, magari l'amperaggio pure passa. No, ripeto, se 240 ci siamo, anzi, meglio. Allora, se si aumenta la tensione, ovviamente dentro ci sono i limiti perché sennò sfonda tutto, però se aumenta la tensione di conseguenza si abbassa l'amperaggio, la corrente, perché la potenza è sempre il rapporto tra tensione e corrente. Allora, se aumenta uno si abbassa l'altro, è inversamente proporzionale, se invece diminuisce la tensione aumentano gli ampere. Cosa succede? Siccome sono magnetotermici e vanno a lettura di corrente, quelli vanno a leggere la corrente, capito? E allora viene quel problemino lì. Però fa male un po', cioè, perché le cose restano fino a 2.30. 2.40, 2.50 arriva molte volte, è troppo. Per quello che vede volte si bruciano le cose, non si sa perché si è bruciata. Beh, 2.50 è un po' tantuccio, 2.40 già va bene. Mi pare che sono più o meno il 10-15% rispetto all'alimentazione nominale. Vabbè, noi così come norma siamo 2.30. Perciò sono 10% di 2.30, sono 23 volte in più, perciò a 2.50 siamo sempre dentro la norma. Ma non pensare, ormai cioè, gli elettrodomestici nuovi, di nuova generazione, così come il televisore o altre cose, hanno tutti quanti il metodo di switching, perciò resistono anche a 2.60, 2.70 ce la fanno, capito? Magari sono le vecchie diciamo quei vecchi utilizzatori che utilizzavano il trasformatore, il portativo, che non avevano un regolatore all'interno che allora vengono sovralimentati. Ma la roba nuova, se è decente, se è di buona marca, non ne fa nulla, comunque si è sempre tra i limiti, perché da 2,30, ripeto, il 10% sono 23 volt, 2,30 più 23 siamo a 253 volt, perciò ci segue. Di solito stiamo dando sempre una tolleranza di 2,30, dai. Anche nelle lampadine nuove che stanno facendo tutto quanto. Il massimale dicono quello, magari esiste anche un po' di più. No, allora il discorso è questo qua. Prima avevamo come tensione nominale la 220, però poi è stata aumentata come tensione nominale a 230, perciò nelle lampadine c'è scritto la tensione nominale, però anche le lampadine possono resistere più o meno anche di più del 10%, capito? Ce la fanno senza nessun problema. Io qua a casa ho tutte le lampade a basso consumo, al neon, perciò non ne fa nulla perché c'è un reattore elettronico all'interno che gliela stabilizza, non ci sono problemi. Sì. Beh, però molte volte quando sale troppo, perché noi una volta ci siamo messi a misurarla, andava oltre 2,40. Quando è così, sembra così, molte volte uno resiste, ma vai oggi e vai domani, vai dopodomani, si brucia la roba. Proprio per quello, una volta che si sbalza in tensione, la corrente si è spenta, è venuta di colpo e ha bruciato il monitor del computer. Quello è il problema, perché quando va via l'alimentazione per qualche scorto o per qualche assorbimento eccessivo, quando viene ristabilita sicuramente, o che c'è ancora il corto che cosa, dà lo sbalzo, capito? Infatti l'uso è quando rilanciano tensione dalla cabina, perché bisognerebbe staccare il proprio contattore, il proprio magnetotermico, aspettare che rientri e poi dopo risollevare, così si stabilizza. Io che poi il vostro anche il televisore c'ha abbastanza. Quando si bruciano le cose, così dalla roba, ed è proprio per quei motivi lì. Si prende già. Bianco per me. Mi sto addormentando, scusate, ma sono un po' stanchino. Allora adoro, non ci sono problemi. E dai, io vi saluto, vi saluto tutti cordialmente e resto un po' all'ascolto. Ciao, buonanotte, provo a vedere cosa ha risolto.